Benvenuti a The Deep Dive, pronti per una nuova immersione. Oggi esploriamo la colonialità dell'essere, un concetto davvero stimolante. Che sì, non si parla del colonialismo tradizionale, quello di navi e imperi. Esatto, è qualcosa di più profondo. Molto più sottile, direi. Riguarda come le strutture di potere coloniali, quelle di secoli fa, influenzano ancora il nostro modo di vedere il mondo. La conoscenza è il nostro essere. Proprio così. Diamo per scontato che essere sia un concetto neutro universale, ma sarà davvero così? Chissà, eh? Le nostre fonti per questa immersione sono piuttosto accademiche, articoli da International Sociology Cultural Studies. Ah, e non dimentichiamoci la ricerca sull'intelligenza artificiale decoloniale da Philosophy and Technology. Roba tosta, ma cercheremo di renderla digeribile, promesso. Tranquilli, vi guideremo attraverso i punti chiave. Vedrete, ne uscirete con nuove prospettive. Allora, partiamo dalla base. Colonialismo e colonialità sono la stessa cosa. No, il colonialismo è quel periodo storico, no. Una nazione che ne domina un'altra, l'impero britannico, per esempio. Classico esempio. Esatto, ma la colonialità è l'eredità di quelle strutture di potere. È come se il colonialismo fosse un fantasma che ancora ci perseguita. Fantasma del colonialismo, immagine forte. Questo fantasma si riflette anche nella tecnologia di oggi. Domanda interessante. La colonialità è ovunque. Nella nostra cultura, nelle istituzioni, persino nel linguaggio. Influenza tutto dalle nostre preferenze personali a come comprendiamo il mondo. Tecnologia inclusa, ovviamente. Nelle fonti si parla di ego conquiro, l'io conquistatore. Pare precede il famoso cogito ergo sum di Cartesio. Già, l'ego conquiro è legato a uno scetticismo particolare. Il dubbio sulla piena umanità delle popolazioni colonizzate. Un dubbio usato per giustificare il colonialismo stesso. Quindi conquisto dunque sono superiore. E tu, conquistato, sei meno umano. Un pensiero agghiacciante. E la tecnologia, nelle mani sbagliate, potrebbe amplificarlo. Purtroppo sì, questo scetticismo era intriso di razzismo, ha alimentato la disumanizzazione di intere popolazioni e non ha plasmato solo le azioni del colonialismo, ma il pensiero stesso. Filosofia, scienza, tutto influenzato da questa visione eurocentrica del mondo. Riassumendo, colonialismo, sistema storico di dominazione, colonialità, il suo fantasma. E alla base, l'ego conquiro, che si afferma sottomettendo gli altri, un filo conduttore che arriva fino a noi. Esattamente. E questo ci porta a un altro nome importante. Martin Heidegger. Heidegger. Il filosofo tedesco dell'essere. Cosa c'entra? Beh, lui era fissato con l'essere, lo considerava la base per capire qualsiasi cosa. Diceva che la filosofia occidentale si era dimenticata dell'importanza dell'essere. Ma il collegamento col colonialismo? Ecco la domanda da $1 milioni. Le nostre fonti suggeriscono che Heidegger, per quanto geniale, abbia un po' ignorato la dimensione coloniale dell'essere. Si è concentrato sulla lotta dell'uomo per l'autenticità, quello che lui chiamava Dasein, ma non ha considerato come questa lotta sia influenzata dalle dinamiche di potere coloniali. Quindi parlava dell'esperienza umana, ma solo di un certo tipo di esperienza umana. Quella dei colonizzatori, non dei colonizzati. In un certo senso sì. E qui entra in gioco la colonialità dell'essere. Significa riconoscere che il concetto stesso di essere, di cosa significhi esistere come essere umano, può essere distorto dalla colonialità. E qui entra in gioco Franz Fanon, giusto? Assolutamente. Fanon, uomo nero in un mondo colonizzato, offre un'altra prospettiva. Parla dei dannati, coloro a cui viene negata la piena umanità dai sistemi coloniali. Quindi per Fanon i dannati vivono un essere diverso da quello di Heidegger. Molto diverso. Per loro non si tratta di trovare l'autenticità, ma di affrontare la disumanizzazione, la violenza, la minaccia costante. Ma se l'essere stesso ha questo lato oscuro, come si combatte? La decolonialità può essere una soluzione. La decolonialità non si limita a porre fine al colonialismo, ma a smantellare tutto il sistema di potere che lo ha creato. Trasformare il pensiero, la cultura, la nostra idea stessa di essere umani. Un cambiamento radicale, quindi. Direi di sì. E non riguarda solo la politica o l'economia. La decolonialità coinvolge ogni aspetto della vita, anche la tecnologia. Prima di passare alla prossima parte, approfondiamo il degendering. Come si collega alla decolonialità? Si tratta di sfidare le norme di genere imposte o rafforzate dal colonialismo, riconoscere la fluidità e la diversità, superare le dicotomie, un concetto applicabile anche al mondo digitale, dove stereotipi e pregiudizi di genere sono ancora diffusi. Interessante. Da colonialismo a colonialità, dall'essere di Heidegger e dannati di Fanon, fino alla decolonialità e la degendering, tutto collegato, tutto incredibilmente attuale. E chissà cosa scopriremo parlando di intelligenza artificiale nella prossima parte. Riprendiamo il discorso sulla colonialità dell'essere, quel filo conduttore che dal passato arriva fino a noi toccando anche la tecnologia. Eh sì, mi ha colpito l'idea che l'ego conquiro, quel desiderio di dominio che ha giustificato il colonialismo. Beh, potrebbe ripresentarsi anche con l'intelligenza artificiale. C'è un rischio reale, soprattutto se pensiamo all'IA come una forza neutra e oggettiva. Ma abbiamo visto che nulla è veramente neutrale. L'IA è plasmata dai valori di chi la crea. Dalle loro ipotesi, dai loro pregiudizi. Esatto. E se chi la crea opera in un sistema ancora influenzato dalla colonialità? L'IA finisce per riflettere quelle stesse dinamiche. Come se il fantasma del colonialismo si trasferisse nelle macchine. Proprio così. E questo si vede anche nel linguaggio. Le parole, i concetti, possono essere intrisi di colonialità. E nell'IA questo come si traduce? Pensa alle categorie, alle etichette che usiamo per addestrare l'IA. Spesso riflettono una visione eurocentrica che non considera la diversità del mondo. Tipo? Un sistema di IA che riconosce le emozioni dai volti. Se i dati per l'addestramento provengono da volti occidentali, il sistema farà fatica a riconoscere le emozioni di volti di altre culture. Non è che l'IA sia razzista di per sé. È che viene addestrata con dati che riflettono pregiudizi. Se mancano dati su volti, lingue e culture diverse, l'IA non interpreterà la realtà correttamente. Come se insegnassimo a un bambino a riconoscere le forme solo con quadrati e cerchi e poi gli chiedessimo di identificare un triangolo. Perfetto. E questo vale per tante applicazioni dell'IA. Algoritmi di assunzione, sistemi di prestiti, la distorsione è ovunque. La colonialità si nasconde nel codice stesso, quindi un po' inquietante. Ma come si può evitare? La nostra fonte sulle aree decoloniali propone alcune strategie. Una è la pratica tecnica critica. In pratica? Spingere gli sviluppatori a riflettere sulle implicazioni etiche e sociali del loro lavoro. Chi beneficia di questa tecnologia? Chi ne è danneggiato? Pensare all'impatto sul mondo, non solo al fattore wow dell'IA. Esatto. Riconoscere che la tecnologia non è mai neutrale. Dobbiamo creare un'IA che serva all'umanità, non il profitto o il potere. Un'IA che tenga conto della colonialità dell'essere e cerchi di decostruirla. Nel senso, altre idee. La reverse tutelage. Imparare da chi è stato marginalizzato dai sistemi coloniali. Giusto, la loro esperienza è preziosa. Ma come si applica allo sviluppo dell'IA? Coinvolgere persone di diversa provenienza nella progettazione. Ascoltare le comunità che subiscono l'impatto di queste tecnologie. La competenza non sta solo nella Silicon Valley, insomma. Esatto. Imparare da altre esperienze e mettere in discussione le nostre idee. Creare un'IA inclusiva ed equa, che non replichi i modelli del passato, ma contribuisca a un futuro più giusto. Questa conversazione mi sta aprendo gli occhi. Prima di andare avanti vorrei tornare sul decolonial love. Come si collega a tutto questo? Un concetto affascinante, vero? Significa riconoscere la piena umanità degli altri, anche di chi è stato emarginato o disumanizzato. Costruire relazioni basate sul rispetto o sulla reciprocità. Capire che siamo interconnessi. Non solo essere gentili, quindi. No, è molto di più. Guardare il mondo con compassione ed empatia. Agire per smantellare l'oppressione che ci impedisce di connetterci davvero. Creare un'IA non solo avanzata, ma eticamente responsabile. Un obiettivo ambizioso, ma fondamentale. Sì, la decolonialità è un progetto collettivo. Dobbiamo lavorare insieme per immaginare un futuro libero dall'eredità del colonialismo. Usare la nostra intelligenza e la nostra creatività per questo. E a proposito di futuro, nella prossima parte vedremo come la decolonialità si applica al mondo digitale in generale. Un tema altrettanto interessante. Siamo arrivati all'ultima parte del nostro viaggio nella colonialità dell'essere, cultura, linguaggio, intelligenza artificiale. Ne abbiamo viste di cose. È già un percorso davvero stimolante, ma non è finita qui. Giusto. Oggi ci concentriamo sul mondo digitale in generale. Oltre all'IA, dove altro si nasconde la colonialità? Beh, pensa all'infrastruttura di Internet. I cavi sottomarini, quelli che trasportano i dati, spesso attraversano ex colonie, seguono le rotte commerciali del passato in pratica. Quindi la struttura stessa della rete riflette le dinamiche coloniali. Incredibile. Sì, e questo influenza l'accesso all'informazione, la velocità di connessione, persino la libertà di espressione. Alcuni paesi hanno più controllo sulle infrastrutture digitali. È una sorta di neocolonialismo digitale. Neocolonialismo digitale. Senti, esempio pratico. La censura online. Alcuni governi, spesso di paesi ex coloni, bloccano siti web o piattaforme social, controllano l'informazione, limitano la libertà di espressione. Capisco. E le piattaforme social come si inseriscono in tutto questo? Sono mezzo potentissimo per diffondere idee e cultura, ma anche strumenti di omologazione. Pensa alla predominanza dell'inglese online. Già, sembra quasi obbligatorio parlare inglese per partecipare al mondo digitale. Esatto. E questo marginalizza lingue e culture non occidentali, una sorta di imperialismo linguistico digitale. Un altro problema è la disinformazione online. Fake news e cose del genere. C'entra qualcosa con la colonialità? Assolutamente. La disinformazione sfrutta pregiudizi e stereotipi, molti dei quali radicati nell'epoca coloniale. Pensa alle fake news che alimentano xenofobia e razzismo. Quindi per combattere la disinformazione bisogna smantellare anche i pregiudizi coloniali. Esatto. Dobbiamo sviluppare un senso critico che ci permetta di riconoscere queste narrative tossiche. Spesso si basano su schemi di pensiero coloniali. Il mondo digitale è un campo minato, insomma. La colonialità è ovunque. Cosa possiamo fare concretamente? Come per l'IE, serve consapevolezza e responsabilità. Dobbiamo riflettere su come usiamo la tecnologia, sulle piattaforme che scegliamo, sulle informazioni che condividiamo. Non basta disintossicarsi dai social, quindi bisogna usarli in modo più consapevole. Esatto. Serve un'etica digitale che guidi le nostre scelte online. Un'etica che tenga conto della colonialità e promuova un uso della tecnologia più equo e inclusivo. Una bella sfida. Questa immersione nella colonialità dell'essere ci ha fatto capire quanto questo concetto sia radicato nella nostra società. Cultura, linguaggio, politica, tecnologia. Un viaggio che ci ha spinto a guardare il mondo con occhi nuovi, a mettere in discussione le nostre certezze, a immaginare nuove possibilità. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione. Speriamo vi abbia fatto riflettere. E che vi spinga ad agire per un futuro più giusto, libero da ogni forma di colonialità.